Mr. Nobody. Prendo contatto dalla terra di Colonia. Gente poco sobria, lascia che sia fatta storia. Il tuo vicino ti ha bucato il cranio, mentre montagne di rifiutti viaggiano in un camion. Pezzi che sono grossi, sì, ma che se fosse per me non varrebbero 50 cents. I media spingono storie sul Medio Est, ma se il Vangelo è Mediaset mi alcolizzo più di George Best. Contratti in fumo, pellegrini che stanno a digiuno. D'altro canto esiste chi è più dedito al consumo. Non c'è pellicola, non esiste una trama, è un bordello che fa risvegliare i morti in tutta Italia. E la giustizia sembra un ideale a rischio. Si accusano di concussione pure il suo ministro. Il presidente tiene uno sguardo sinistro col sorriso fisso perché dentro incarna l'anticristo. La popolazione poi cosa ne sa quando viene fatta festa e la bandiera è compromessa. È una bomba che non si disinnesca ed è sempre la stessa merda, non conta a sinistra o destra. M-A-F-I-A, è così che si chiama. L'azienda che tu chiami Stato è per farla chiara. Sono corrotti tutti dal giudice al Papa. E se questa è leggenda, resta un mito che non si sfatta. In questo gioco vincerà sempre la volpe. Dare fiducia resta la più grave delle colpe. Comanda pure una montagna di congiure. Tu mi rappresenti, non abbiamo niente in comune. In questo gioco vincerà sempre la volpe. Dare fiducia resta la più grave delle colpe. Comanda pure una montagna di congiure. Tu mi rappresenti, presenti, non abbiamo niente in comune. Qua, niente in comune tra noi due. Tu resti in bla bla bla, chiedi a chi sta schiena a terra, ba bamba giù di dinà. Non sono tuo compa e tu col letto alto. Ora via da qua. Nella realtà chi comanda, lo Stato intanto sbanda. Dalla gente quanto a Raffa e Magna, il popolo ti vota, tanto una carogna vale quanto un'altra da destra manca. Sento le promesse come caramelle. Tagli alle tasse, sono tutte balle. Taglia gli stipendi, mi parlano di deficit. So solo che un bambino appena nato è già coi debiti. È così che va la vita, chi la prende in culo. Chi invece te la mette al futuro più sicuro. Io me ne sbatto di campagna elettorale. Resto sempre più convinto, siete peggio d'ogni animale. E si frate così, la vostra Little Italy resterà la shit dell'Europa. Quanti VIP, calciatori, travallette. E quante bici, quanti in Parlamento. Ora svegliati machi. In comune non un cazzo con si stronzi. Popolo di libertà, popolo di omertà. Da quando in qua va essere fan dei capi della vera criminalità. E che cazzo. In questo gioco vincerà sempre la volpe. Dare fiducia resta la più grave delle colpe. Comanda pure una montagna di congiure. Tu mi rappresenti, non abbiamo niente in comune. In questo gioco vincerà sempre la volpe. Dare fiducia resta la più grave delle colpe. Comanda pure una montagna di congiure. Tu mi rappresenti, non abbiamo niente in comune. La morte, il golpe, un suicidio che va oltre. Sta nel figlio di puttana che si crede volpe. Comanda chi? Sudditi della TV. Stupidi rincoglioniti, voi non siete i nostri king. La mannaia record 009. Continua a dare fiducia a sti figli di puttana. Garanti della giustizia. Domani MC piscio sopra. È chiaro?